2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questa è la nostra prima puntata della nuova stagione fine estate, autunno, inverno, primavera di 2024. Le nostre coordinate sono sempre le stesse, 2024@radio24.it, Facebook e anche Twitter, cercate 2024 Enrico Pagliarini. Alcuni dicono che è arrivato il momento in cui per innovare non bisogna più aggiungere ma togliere. Poi bisogna vedere se si parla di innovazione o di marketing. Comunque, in effetti questa settimana la cosa che ha fatto più parlare del nuovo iPhone è una cosa che non c'è. In generale potremmo dire che le ultime presentazioni di prodotti, soprattutto smartphone, e anche quello che si è visto o non visto all'ultimo IFA di Berlino, che è la principale fiera di tecnologia in Europa e una delle più importanti al mondo, beh, ci dicono che siamo arrivati in una sorta di vicolo cieco, una zona un po' complicata, un collo di bottiglia in cui l'innovazione è veramente difficile, i produttori hanno molta difficoltà a proporre cose nuove. In mezzo a tutto ciò c'è comunque grande innovazione anche in altri settori, anzi soprattutto in altri settori al di là del mondo degli smartphone. Innovazione spinta soprattutto all'intelligenza artificiale. Questo è un tema su cui torneremo spesso in questa nuova stagione. È questo il settore che più ci stupirà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che arriva da Bruxelles. La Commissione europea ha presentato una prima bozza per definire la fine del roaming nell'Unione europea dal 15 giugno 2017. Allora, per evitare abusi del tipo che compro una SIM in un paese che ha un costo della vita più basso e la uso in Italia o in Germania, o comunque la uso in un paese dove il costo della vita è elevato, si potrà andare in roaming, sia voce che dati, per un massimo di 90 giorni all'anno, ma non più di 30 giorni consecutivi. Poi bisogna riconnettersi alla rete nazionale almeno una volta, quindi di fatto almeno una volta al mese bisogna connettersi alla rete, alla propria rete nazionale, proprio per evitare questo abuso. E mi sembra anche una proposta ragionevole, anche se c'è già un po' di polemica in Unione Europea, perché ci sono i più integralisti che vorrebbero invece che questo limite fosse un po' più esteso. Comunque questa proposta verrà discussa il 15 dicembre. Digital News. Il mercato dei droni e in generale dei velivoli senza pilota cresce anche in Italia in modo molto importante. L'ENAV ha lanciato una selezione per trovare un partner industriale col quale creare una nuova società specializzata nella gestione del traffico di velivoli a pilotaggio remoto. Secondo ENAV, in Italia sono stati venduti lo scorso anno 100.000 droni, che diventeranno 700.000 fra 5 anni, di cui il 60% a fini professionali. E a questi velivoli servirà un servizio di informazione sul traffico, così come oggi esiste per gli aerei passeggeri o gli aerei cargo. Digital News. Fastweb ha esteso il servizio WowFi ad altri 362 comuni del nord Italia dopo averlo attivato nelle 62 principali città e in 200 comuni del sud Italia. Con questo sistema, lo ricordiamo, i clienti Fastweb possono usare gratuitamente un hotspot Wi-Fi di altri clienti che condividono la propria connessione, tutto gratuitamente, cioè se tu condividi la tua connessione di casa puoi usare quella degli altri se giri per l'Italia, viceversa insomma vale per gli altri. Ricordiamo che anche Vodafone e Tiscali hanno soluzioni di questo tipo per i loro clienti. Digital News. La competizione prevalentemente nelle città italiane per la fornitura di servizi internet ad alta velocità, prevalentemente su fibra, sta aumentando, e questa è una buona notizia, tanto che Telecom Italia, per difendersi dall'avanzata di Enel Open Fiber, che si è fusa con MetroWeb durante l'estate, ha stretto un accordo con A2A, che è una multi-utility molto importante del nord Italia, per usare le canaline già usate dalla multi-utility per i cavi elettrici. Si parte da Milano per poi estendere il riutilizzo di queste infrastrutture a Bergamo e Brescia e in altre zone con altre multi-utility. questa parte di 2024 parleremo di Apple e di Sony, che hanno presentato sia il nuovo iPhone che il nuovo Apple Watch e anche la nuova PlayStation. Come molti di voi sapranno, Apple ha tenuto questa settimana il proprio evento preautunnale per lanciare il nuovo iPhone e appunto anche il nuovo Apple Watch. La prima cosa però che arriverà sarà il nuovo sistema operativo iOS 10, disponibile per tutti i consumatori, per tutti quelli che hanno un iPhone compatibile dal 13 settembre. Per quanto riguarda Apple Watch, è stata lanciata la serie 2, che si affianca alla serie 1. Ricordiamo che Apple Watch è attualmente, ancora oggi, lo smartwatch più venduto, diciamo il doppio rispetto al primo competitor. È sicuramente un prodotto molto ben costruito. E a proposito della nuova serie, ci sono stati degli upgrade interessanti, perché è impermeabile fino a 50 metri sott'acqua, quindi va bene per i nuotatori, ha un processore più potente, un display migliorato e, alcuni potranno dire, finalmente il GPS integrato, che era una delle mancanze più gravi del modello precedente. This is iPhone 7. Tim Cook ha poi presentato i nuovi iPhone 7 e iPhone 7 Plus. Sappiamo che ormai gli iPhone sono due, hanno un design molto simile agli attuali iPhone, sempre molto bello ed elegante, e alcune caratteristiche che migliorano questi smartphone o, potremmo dire, li riposizionano al livello di alcuni concorrenti. Allora, alcune caratteristiche: gli iPhone saranno impermeabili, come lo sono già da un po' di tempo gli ultimi Galaxy, avranno il tasto home capacitivo con feedback tattile, quindi non un vero e proprio tasto, una fotocamera compresa quella frontale migliorata, e nel modello Plus o Plus, dite un po' come volete, una doppia videocamera come ha fatto Huawei sul P9. Però qui Apple ha fatto tutto in casa, non ha fatto un accordo con una casa di fotocamere, come è tradizione del resto di Apple. Allora, in questo modo, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, migliora lo zoom, soprattutto lo zoom, si possono ottenere risultati in alcune condizioni di luce ambientali simili ad una reflex, perché non è che si sostituisce la reflex. La combinazione di zoom ottico e digitale è stata presentata come molto buona. Bisognerà provare e verificare se questo è vero, quanto questo sia vero. Comunque, insomma, le caratteristiche sono sicuramente molto interessanti. Sono stati migliorati sia il display, sia il processore e anche l'autonomia, di un'ora per il modello Plus e di 2 ore per l'iPhone normale. Ma forse la novità di cui più si sta parlando in questi giorni, o si parlerà, ci sono anche parecchie polemiche, molte critiche, allora riguarda una cosa che non c'è. Quindi non una cosa che c'è, ma una cosa che non c'è. Perché Apple ha deciso di eliminare dal telefono il mini jack audio. La cosa era stata anticipata perché erano uscite delle indiscrezioni, ma non sempre c'è certezza di queste indiscrezioni. Devo dire che invece in questa tornata quasi tutte le indiscrezioni sono state azzeccate, anche una relativa alle cuffiette wireless. C'è stato un analista giapponese che aveva spiegato tutto per filo e per segno e aveva raccontato molto bene di che cosa si trattava. Saluto Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it, www.dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Ciao, grazie mille, bentrovati gli ascoltatori. Allora, quanto è nuova questa scelta di Apple e soprattutto quanto rivoluzionaria? Perché secondo me va a toccare un'abitudine di, non dico tutti, però di miliardi di persone. È stato detto durante la presentazione, ci vuole coraggio. Sì, lo ha detto Phil Schiller durante la presentazione, ed è una delle motivazioni che è stata portata da Apple per spiegare il motivo per cui è stata presa questa scelta di togliere il mini jack audio. Courage. The courage to move on, do something new, that betters all of us. Poi vedremo col tempo se questo coraggio è stato, come dire, ben posto o forse è un coraggio sbagliato in questa fase. Io personalmente, perché qui entriamo quasi nelle abitudini personali, personalmente sono molto contrario all'eliminazione della presa jack, ma questo, il fatto che venga citato che il jack nasce addirittura con la commutazione telefonica alla fine del 1800, sì, quindi, più di 100 anni fa, quindi insomma a me non spaventa. Non è che perché la ruota è stata inventata qualche migliaio di anni fa che adesso facciamo le auto che volano o le auto con le ruote quadrate, cioè ci teniamo ben stretta la ruota, cerchiamo di migliorarla. Quindi a me questa cosa non spaventava affatto. Abbiamo un, chiamiamolo installato, anche se non è un'installazione, cioè un distribuito, un venduto a casa di tutti gli utenti del mondo di miliardi di cuffie con il mini jack, quindi è chiaro che la sparizione della presa mette fuori gioco istantaneamente un numero incredibile di apparecchi che, per quanto anche poco costosi, ma in alcuni casi no, in alcuni casi c'è chi ha preso delle cuffie con un mini jack da molti soldi, centinaia di euro, molte, molto sofisticate, quindi mette fuori gioco apparentemente, poi vediamo perché, un sacco di cuffie. Questo ovviamente non mi piace, come non mi piaceva la scelta per esempio nel MacBook da 12 pollici, quello piccolissimo, bellissimo, sottilissimo, portatilissimo, di levare tutte le prese in cambio di una sola USB-C. È vero che con gli adattatori posso fare tutto, però è vero che è proprio Apple che ci insegna l'usabilità degli apparecchi. Beh, gli adattatori sono quanto di meno usabile, quanto di più dimenticabile, quanto di più smarribile esista al mondo, quindi un mondo di adattatori è un mondo che non mi piace. Detto questo, dobbiamo prendere atto che il nuovo iPhone non ha più la presa mini jack, anche se ha l'adattatore incluso nella confezione, sì. Però uno dice vabbè, è una cosa posticcia ed è una scomodità, ma soprattutto ci si domanda, questa scelta verrà poi seguita da altri produttori? Allora, sappiamo che Motorola con il Moto Z o Moto Z ha già fatto questa scelta utilizzando USB-C, sì. Le Eco, che è un produttore cinese pressoché sconosciuto qui ma comunque un grande produttore in Cina, ha presentato una serie di smartphone senza mini jack. Ma sì, l'abbiamo visto già nel passato, Apple è riuscita a sdoganare scelte di questo tipo e di fatto i primi notebook senza lettore meccanico di CD-ROM sono stati proprio i Mac. E la scelta sembrava incredibile, pazzesca al momento, perché tutti i programmi, un sacco di contenuti venivano distribuiti su dischetto ottico, poi si è capito che tra chiavetto USB, Wi-Fi e compagnia bella non serviva assolutamente, anzi era un peso inutile. Ecco, in questo caso però non si parla più di peso, ma quasi verrebbe da dire che non si parla più neanche di ingombro, non si parla più neanche di costi. E magari vediamo velocemente perché. In realtà qualcuno potrebbe essere portato a pensare che levando la presa mini jack si risparmi in componenti, perché effettivamente l'audio poi esce in digitale dalla presa Lightning nel caso dell'iPhone, USB-C nel caso degli Android, e poi quindi non c'è più il convertitore digitale analogico all'interno del telefono, quindi si risparmia un componente, cosa non vera, perché prima devo metterlo anche nelle cuffie, questo componente, e quindi è chiaro che semplifico forse il telefono, forse da una parte, ma per complicare la cuffia, ma non semplifico neanche il telefono, perché il convertitore ci vuole comunque, perché siccome il telefono ha gli speaker interni, gli speaker sono analogici, un convertitore ci vuole comunque all'interno, quindi non risparmio in componenti, risparmio in spazio, sì, certo, lo spazio proprio meccanico dell'inserimento del mini jack, che sappiamo essere molto piccolo, quindi per quanto i telefoni siano tutti spinti sotto la fronte della miniaturizzazione, non può sembrare onestamente quello il motivo, e quindi resta per deduzione il motivo che un po' tutti pensiamo che sia un motivo per dare, sì certo, una svolta di modernizzazione al mercato, bla bla bla bla bla, ma fondamentalmente per vendere una nuova generazione di cuffie che possono essere wireless, perché no? Guarda caso, non a caso Apple proprio nello stesso evento ha presentato i suoi auricolari wireless, oppure possono essere appunto a filo come gli auricolari dati in dotazione, però con la nuova interfaccia. Il problema qual è? Il mini jack era di tutti. Tutti, quindi proprio perché era un po' anzianotto, era adottato da tutti. Sì, forse lo standard più diffuso, nemmeno nel mondo elettrico ci sono degli standard così diffusi. No, questo è internazionale, diffusissimo. Ucciderlo così senza avere un successore, altrettanto universale, è un vero peccato, perché adesso andiamo incontro, in attesa di altre invenzioni o alzate d'ingegno, a un mondo diviso comunque in due. Quindi gli stessi modelli di cuffie, io penso anche ai produttori, tutto sommato, che devono essere forniti con adattatore, cioè con spina Lightning, con spina USB 3 e anche, cioè USB-C, scusate, sì. E anche col mini jack, perché anche il mondo mini jack non è che scompaia, che scompare istantaneamente, cioè c'è un legacy che resta. Quindi a questo punto... diciamo che abbiamo preso uno standard, uno dei pochi standard universali, e l'abbiamo ucciso. Non è una bella notizia. Secondo te gli altri seguiranno? Cioè è probabile che Samsung, Huawei presto faranno lo stesso? Tutto lascia pensare che sia così, assolutamente sì. Però quindi, andranno su USB-C per la parte cablata, andranno su USB-C, ma secondo me sempre più si andrà verso Bluetooth, che è già diffuso, largamente utilizzabile, che molti utilizzano. Piccolo problema è che è un altro device da mettere sotto carica. La cuffia, invece, l'auricolare che stava in tasca dovunque, è una cosa di una semplicità totale. Qualcuno anche già ironizza sul fatto anche che gli auricolari, se parliamo di auricolari Bluetooth, come quelli che ha presentato Apple, siano molto anche facili da perdere, perché non sono collegati a un filo. Cioè il filo che era, come dire, quello che vogliamo eliminare, eccetera, eccetera, ma è anche un guinzaglio per questi auricolari, ci permette di ritrovarli anche nella borsa, tiriamo il filo e vengono su. Ecco, non sarà così per gli auricolari Bluetooth. Senti, queste cuffiette, e quindi poi anche quello che succederà nel futuro, sono universali? Cioè, allora, la cuffietta jack dell'iPhone la potevo usare anche su un Android e viceversa. In questo caso... Non ci sono dettagli in questo senso, ma penso di no. Penso che sia un prodotto dedicato e quindi funziona solo, quindi ulteriore complicazione. Tecnicamente dovrebbero poter funzionare con qualsiasi device Bluetooth. Poi all'atto pratico ci sono alcune funzioni tipo l'autoassociazione all'apertura della scatoletta e alcuni dettagli che probabilmente funzioneranno solo con iPhone, ma bisognerà provarli. Adesso per il momento siamo fermi solo all'annuncio. Sì, anche perché questi usciranno non in contemporanea con il nuovo iPhone, che sarà già disponibile anche in Italia. Questa è una novità. L'Italia è stata inserita come mercato di prima fascia, cosa che fino alla scorsa presentazione la prima volta non accadeva. Invece queste cuffie arriveranno ad ottobre, in tempo per la stagione natalizia, dove potrà essere un regalo importante, ecco, perché sono 179 euro infatti, quindi però arriveranno in tempo per la stagione natalizia di sicuro. Quindi non esiste una ragione molto solida? Non esiste una convenienza per l'utente finale, a mio avviso, perché se voleva tagliare il filo, l'utente finale con i telefoni di oggi poteva già farlo con qualsiasi cuffia Bluetooth, già perfettamente compatibile con tutti i telefoni. Eliminare il jack in un'ottica di purezza stilistica e razionalizzazione, perché less is better, tanto per intenderci, secondo me è una forzatura. Io preferisco tuttora, parlando come dicevamo per esempio di notebook, un notebook che ha più porte disponibili, l'HDMI disponibile direttamente, più HDMI possibili, più USB possibili, DisplayPort, eccetera, eccetera. Più porte ha, più sono contento. Meno porte ha, più so di essere rigido, più so che mi servirà un adattatore, che mi servirà qualcosa. Comunque, possiamo dire che è un punto di svolta molto importante, perché qui cambia la fruizione dell'audio, alla quale eravamo abituati da tantissimi anni, e se tu mi dici, come è probabile che sia, che tutti gli altri produttori seguiranno, beh, cambierà la vita di milioni di consumatori, perché se la cosa fosse relativa al mondo iPhone, sappiamo che stiamo parlando di un quinto, un quarto, secondo dei mercati, degli utenti di smartphone. Se questo invece coinvolgerà tutto anche il mondo Android nel giro di pochi anni, beh, qui cambia proprio tutto. Sì, cambia tutto. Avremo nel cassetto, nei recessi più profondi dei nostri cassetti, le vecchie cuffie, i vecchi auricolari, in attesa che possano mai tornare utili, ma fondamentalmente ci sarà un grande ricambio. Da questo punto di vista, attendere, magari non domani mattina, ma per i mesi e per gli anni prossimi, si fregano le mani i produttori di accessori, di cuffie. Ah, certo, sì, è evidente. Sì. Senti, è probabile che, perché adesso noi stiamo parlando di una rivoluzione che da mini jack passa a un altro tipo di connettore, ma è probabile che nel giro di pochi anni l'unica fruizione delle cuffiette sarà wireless? Cioè non ci sarà più il filo, così come accade per tante altre cose? Secondo me sì, almeno su alcuni modelli. Ci saranno i modelli che funzioneranno praticamente solo in wireless o no, comunque una presa per la ricarica, fino a che la ricarica anche qui wireless questa non sarà largamente disponibile, non ci sarà uno standard veramente diffuso ed efficiente. Ci sarà comunque una presa per la ricarica, che abbiamo visto essere ormai combinata con anche i dati, quindi che sia Lightning, che sia USB-C, comunque quella presa ci sarà ancora per molto tempo, e quindi da lì, abbiamo visto, ci può essere anche una cuffia a filo. Ma io credo che a questo punto, divergendo gli standard, la gente sceglierà sempre più, l'utente sceglierà sempre più la cuffia wireless, perché oltre a non avere il filo di collegamento, diciamo, tra la cuffia e il device, che molte volte è scomodo perché il telefono è nella borsa, perché è in tasca, eccetera eccetera, ha anche il vantaggio di essere oggi multicompatibile. Cioè oggi una cuffia Bluetooth è compatibile con qualsiasi telefono che abbia la presa jack, che non ce l'abbia, che sia Apple, che sia Android. Quindi è evidente che quella oggi è la soluzione. Certo, il costo medio della cuffia salirà molto, perché quelle a filo costavano qualche decina di euro, anche prendendo cose decorose, e quelle Bluetooth, se si vogliono delle cuffie decenti, si va a forse un centinaio di euro. Sì. Per prodotti buoni. Certo, certo. Bene, Gianfranco, grazie per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Grazie mille. Beh, sicuramente vedremo, abbiamo già visto in questi giorni, ma vedremo molto più nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, un'esplosione di adattatori Lightning, ma soprattutto di cuffiette non solo wireless, ma anche con il filo, ma soprattutto wireless. C'è chi dice che il futuro delle cuffie per ascoltare musica o per telefonare sarà senza fili. Vedremo quali saranno le proposte dei produttori che si andranno ad affiancare agli AirPods, queste cuffiette tecnologicamente molto sofisticate presentate da Apple, che usciranno un po' dopo rispetto agli iPhone, verso la fine di ottobre, ad un prezzo sicuramente molto importante, come dicevamo. Questo è iPhone 7, che rimane poi qui, dipende dai credo, dalle religioni, anche dalle proprie sensazioni. Io penso che rimanga ancora oggi il miglior telefono sul mercato, anche se le differenze sono molto sottili, soprattutto per l'equilibrio che c'è tra il software e l'hardware, soprattutto il software. Io che uso tutti gli ultimi modelli di Android e anche iPhone, beh, penso che quel iOS sia ancora superiore rispetto ad Android, però ripeto, le differenze sono molto sottili e molte cose vanno anche a gusto personale, quindi è sempre molto difficile fare una classifica. Torneremo sicuramente a parlare di telefoni, di smartphone, nelle prossime puntate di 2024. Tra poco ci trasferiamo da San Francisco, dove c'è stata la presentazione di iPhone, a New York, dove c'è stata la presentazione di un altro prodotto di cui si parla in questi giorni. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, riprendiamo tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024, la nostra prima puntata della nuova stagione. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Mi trovate anche su Facebook e anche su Twitter. Da San Francisco passiamo a New York, dove Sony ha presentato la nuova console PlayStation 4 Pro. Luca Tremolada del Sole 24 Ore. Luca, bentornato a 2024, ciao. Grazie Enrico. Allora, se dicessi che PlayStation è la console più popolare, vista anche la storia della... Diciamo che ormai PlayStation è diventato sinonimo di console da gioco. Ah, nel... Sì, esatto, la PlayStation è stata... è data come sinonimo del videogioco, poi ha perso terreno con la Wii, te la ricordi? Quando è arrivata la Wii, insomma, hanno venduto in maniera spaventosa. La Wii era famosa per il controller che tu usavi. Esatto, dove ti ricordi che si spaccavano i polsi all'inizio, c'erano delle storie, delle miti, delle leggende strane, però insomma ha portato a, ha reso più democratico il videogioco, perché ci giocava anche il nonno, il bambino. Molto facile, esatto. Molto facile, e poi ha ripreso lo scettro, cioè è ritornata in auge con PlayStation 4, è tornata ad essere la regina del mercato delle console ed è la più venduta. Oh, tra l'altro, su questo possiamo anche sorridere, non so per quale motivo, ma essendo giapponesi a volte non si riesce a capire fino in fondo il motivo, hanno fatto la presentazione lo stesso giorno e nelle stesse ore di iPhone. Di Apple. È un mistero vero. Tra l'altro è anche stata studiata bene, perché è finita la conferenza Apple e un'ora dopo, ma mezz'ora, hanno iniziato da New York. Per cui, volendo, uno si poteva, un tecnofilo vero, si seguiva tutto questo. In streaming. Oh, probabilmente, visto che Apple ha annunciato una decina di giorni prima la presentazione del 7... E questi mica possono decidere in una settimana di spostare... O magari, quindi... sai cosa c'è? Che sapevano prima che ci sarebbe stato Shigeru Miyamoto. Hai presente l'introduzione della conferenza Nintendo. Apple era il grande papà di Super Mario, che ha introdotto il nuovo iPhone, e per cui volevano, insomma, togliergli un po' la scena, ecco. Sì. Allora, questa nuova console si chiama PlayStation 4 Pro. Quindi non è una nuova generazione. No, diciamo che è una versione, è un fratello maggiore molto più forte, molto più potente. Ecco, l'idea non è stata quella di portare sul mercato una console completamente nuova, magari non retrocompatibile, cioè con giochi completamente diversi. Hanno voluto fare una versione più potente. Perché? Perché? Per veicolare i contenuti in 4K, parliamo dell'Ultra HD, quindi videogiochi con una risoluzione maggiore, con una qualità visiva di impatto estremamente superiore, ma anche se non hanno detto durante la conferenza stampa, ma a noi insomma era abbastanza chiaro, anche per permettere l'esperienza della realtà virtuale con una qualità molto maggiore. Per l'esperienza, poi parliamo anche di 4K, ma per la realtà virtuale poi servirà... Non so se è già incluso nella confezione oppure servirà un visore apposta. Allora, a ottobre esce il visore. A ottobre uscirà questo visore per la realtà virtuale di Sony. E poi a novembre uscirà questa nuova PlayStation. Per cui, insomma, le cose sono state studiate abbastanza bene. Il visore funziona anche sulla PS4. Ok. Però è probabile, qua non abbiamo ancora delle prove reali perché è stata solo mostrata la macchina, non è stata fatta un'analisi sui giochi, che anche la realtà virtuale possa girare meglio. Sì, certo, perché è più potente. Però una cosa, prima di tornare sulla tecnologia, sulle novità di questa console, è interessante vedere, capire come sta cambiando il mondo delle console. Noi eravamo abituati ad un mondo in cui ogni tot anni usciva una nuova generazione di console, si buttava tutto quello che precedeva e si apriva un nuovo mondo. Sì, ogni non è più così. No, il ciclo di vita della console era molto semplice. Ogni 5-10 anni tu acquistavi la nuova console, ti mettevi i tuoi piedi sotto il divano e andavi avanti tranquillo. Intanto il mondo non sarebbe cambiato. Anzi, le console sono nate proprio per questo. Cioè c'era il mondo dei giochi su PC che continuavano a migliorare perché cambiavano le schede grafiche, e poi in quello delle console che invece era più stabile, più fisso. Era anche un aiuto per gli sviluppatori, perché dicevano: queste sono le caratteristiche tecniche, io lavoro ragionando su questa macchina. Quindi tranquilli i consumatori, tranquilli gli sviluppatori. Esatto. Quello che sta succedendo è che, insomma, diciamo che le console stanno assomigliando sempre di più agli smartphone, che sono la seconda grande piattaforma videoludica. Che cosa significa? Significa che si accorciano i tempi di ciclo di vita del prodotto, che cercano di inseguire le novità, i giochi che possono avere più effetto, le scenografie migliori, gli effetti più strabilianti, e per farlo bisogna cambiare l'hardware. Esatto, migliorare l'hardware. Allora, tornando all'hardware, stiamo parlando di una console più potente, quindi di fatto una PS4 più potente. Sì, una PS4 più potente. La vera novità non è tanto, se vogliamo essere un po' tecnici, poco, non è tanto la CPU, che insomma è leggermente più veloce, ma sono gli acceleratori grafici. Questo proprio per muovere più poligoni. Per cui che cosa servirà a questi acceleratori grafici? Serviranno a portare una qualità del videogioco che per gli sviluppatori vorrà dire o aumentare il frame rate, per cui la velocità di immagine, oppure aumentare la risoluzione. Tutto questo avverrà sopra i 1080p, per cui sopra la qualità a cui siamo abituati, sì, dell'HD. Allora, mi hanno detto, ho letto che non è proprio 4K nativo, esatto, però esatto, diciamo, esatto. È proprio questo il punto, cioè il 4K, diciamo che nel mondo del videogioco il 4K nativo, avere uno standard così fisso, non serve. Serve invece dare agli sviluppatori la possibilità di scegliere se aumentare la risoluzione, quindi un'immagine pittorica molto bella, oppure giocare sulla velocità e sulla dinamicità dell'azione. Certo, ovviamente serve un TV 4K, però visto che si stanno diffondendo... Certo. Senti, nel mondo della realtà virtuale... Innanzitutto ti chiedo un parere, secondo te sarà una rivoluzione o sarà qualcosa per pochi? Perché poi questi visori costano, almeno in questa prima fase, poi vedremo se si abbasserà il prezzo. Allora, ne parli con la persona sbagliata, perché insomma io faccio da 10 anni questo mestiere, come sai, e la realtà virtuale la ritengo una delle cose più divertenti che ho incontrato. È divertente, noi abbiamo giocato insieme. Esatto, sai anche che sono genovese, per cui ti dico anche che la realtà virtuale è una delle cose più costose in questo momento, sì. Per cui se voglio comprarmi Oculus devo spendere un sacco di soldi, per cui è un divertimento ancora per poco, per geek, per super appassionati. Diciamo che la PlayStation, la Sony da questo punto di vista si porta un po' avanti, perché il suo visore è un accessorio della PS4, per cui insomma costa un po' meno, ancora meglio Samsung con il suo visore. Però insomma, se mi stai chiedendo se è divertente, ti dico sì. Se è uno strumento per fare videogiochi, ti dico boh, perché i videogiochi sono molto divertenti, però sono un tipo di media che richiede un'immersività non così totale. Possono essere, io le vivo più come esperienze personali di grande immersione in determinate realtà. Può essere il cinema, può essere il turismo, la killer application della realtà virtuale. Il videogioco sarà lo strumento per farla diventare popolare. Ecco. Sì. Poi è vero che la realtà virtuale potrebbe servire per tante altre cose, c'è chi dice per il turismo, per vivere prima certe esperienze, per, che ne so, comprarsi una casa, comunicare che deve anche ancora essere costruita, sì, tante cose. Magari un domani io dalla mia redazione, tu dalla radio, ci mettiamo in realtà virtuale e facciamo una radio, ma che ne sappiamo. Chi lo sa. Prima che qualcuno ci scriva a questo punto della trasmissione, giustamente, ma fra qualche secondo non più giustamente, diciamo che non è la prima console a offrire una esperienza 4K, giusto? No, esatto, cioè diciamo che è un po' la risposta di Sony a Microsoft, che è uscito a giugno con Xbox One S, che è la prima console con delle uscite in 4K. E attenzione, la stessa Microsoft, che è il rivale di sempre, insomma un po' Milan Inter della situazione, uscirà o ha annunciato questo Project Scorpio, che di cui si sa pochissimo, si sanno solo che saranno caratteristiche tecniche molto alte, studiata appositamente per aumentare la qualità della realtà virtuale. Per cui sarà una macchina che nasce con la missione di rendere la realtà virtuale ludica più potente e migliore. Sì, e di questo c'è sicuramente bisogno, perché siamo ancora in una fase dove ci sono un po' dei pixel un po' troppo grossi. Anche secondo me, anche secondo me. Molto bene, Luca, grazie per essere stato con noi, buon divertimento, a presto. Grazie. Sempre prima che qualcuno ci scriva, volevo aggiungere che un'altra delle caratteristiche di PlayStation 4 Pro è il supporto all'HDR, che è una nuova tecnologia che viene molto pubblicizzata da produttori di TV, da produttori di contenuti, ma nessuno sa che cos'è. È una cosa che non è facilissima da raccontare, da spiegare. Poi magari un giorno ci torneremo in modo più approfondito. Si chiama High Dynamic Range, HDR sta per High Dynamic Range, cioè elevata gamma dinamica. È una tecnologia adottata sui televisori, sulle trasmissioni televisive e anche altri contenuti video, in grado di aumentare la dinamica della gamma colore e di rendere di fatto le immagini più vicine alla realtà. Cioè il televisore in combinazione con il contenuto che utilizza l'HDR riesce a fare una cosa che l'occhio fa naturalmente quando siamo all'aperto. Però l'occhio è ancora superiore rispetto a qualsiasi tecnologia. Comunque sicuramente HDR migliora questa percezione, è molto più vicina nei movimenti, anche soprattutto nella gamma dinamica dei colori alla realtà. Adesso dimentichiamoci i videogiochi, dimentichiamoci gli smartphone, anche se tutto ciò funziona bene se esiste sicurezza, se esiste una sicurezza diffusa nei servizi che utilizziamo, proprio negli oggetti che utilizziamo, quindi all'interno degli smartphone, dei nostri computer e anche all'interno delle console da videogioco. La sicurezza è una cosa molto molto importante, purtroppo ci si dimentica spesso, un po' come l'assicurazione. Magari molti italiani non sono assicurati al di là dell'automobile perché è obbligatorio, e poi quando succede qualche cosa è troppo tardi. Filippo Monticelli è il country manager di Fortinet, benvenuto a 2024. Grazie. Diciamo due parole su Fortinet per far capire agli ascoltatori che voi siete una delle principali società che si occupa di sicurezza. Come vi definite? Perché una volta si diceva sicurezza informatica, oggi? Diciamo che più che sicurezza informatica ci definiamo come la società che sviluppa soluzioni e piattaforme partendo dalla network security. Il nostro core è la network security, e attorno alla sicurezza del network, quindi delle reti di comunicazione sulle quali poi va a incidere tutta l'informatica, quindi da lì il termine poi sicurezza informatica. Noi però partiamo dal network, quindi partiamo dalla rete e facciamo sicurezza sulla rete. Quando tu dici i nostri sistemi, stiamo parlando non solo di software, anche di macchine proprio. Parliamo di tipicamente apparati, dal più piccolo, abbiamo apparati che possono essere posizionati sulle piccole e medie aziende e che possiamo ritrovare su una scrivania, diciamo apparati desktop di piccole dimensioni. Cioè grandi come un router, più o meno, per far capire. Più o meno, più corretto. Perché è necessario, per garantire maggiore sicurezza, avere un pezzo hardware, che naturalmente dentro ha del software? Ma sono sviluppate attorno a componentistiche ingegnerizzati da noi, quindi sono apparati che devono poter implementare funzionalità di sicurezza ad alte prestazioni su flussi di traffico importanti che li attraversano chiaramente. E per fare questo sono richieste appunto funzionalità specifiche, software specifici e nel nostro caso, come Fortinet, anche componentistiche e circuiteria specifica, sì, per le funzionalità di security. Quindi per me, che non sono un grande esperto di sicurezza, la risposta più semplice è perché l'hardware garantisce maggiori livelli di sicurezza. L'hardware, il fatto di implementare certe funzionalità di security in hardware, garantisce altissime prestazioni e bassa latenza, quindi molto veloce. Se parliamo molto veloce, e questo è un aspetto chiaramente importante, fondamentale, se parliamo di un'utenza di tipo business. Certo, dunque, quando parliamo di sicurezza, alcuni sono temi ricorrenti perché sono temi che conosciamo da tantissimi anni, eppure ancora oggi ci tocca parlare sempre di questi temi, perché la consapevolezza, però è anche una domanda, nelle aziende, soprattutto nelle medie e piccole aziende, che hanno tantissimi dati che andrebbero protetti, proprietà intellettuale, progetti di prodotti che poi fanno il Made in Italy, ancora oggi c'è ancora poca consapevolezza, quindi siamo di fronte a una nazione che è poco protetta di fatto. è un fenomeno. È un'affermazione, questo, ma anche un punto interrogativo. Condivido l'affermazione. È un fenomeno purtroppo diffuso in Italia, ma non solo in Italia. Il problema della sensibilità alla protezione delle informazioni, dei dati sensibili. E qui non parliamo solo di dato sensibile inteso come la intende il garante per la privacy, no? Giusto per, sì, non la mia religione o il mio credo ma politico. Parliamo sì, di spesso, come hai detto tu, proprietà intellettuale, informazioni rilevanti e strategiche per un'azienda, medio, grande o piccola che sia. Questo tipo di sensibilità non c'è in Italia, non c'è in molti altri paesi. In Italia forse questa situazione, quello che vediamo noi come osservatori esterni che poi hanno visibilità su quello che avviene a livello globale, è che in Italia l'alta incidenza di piccole e medie imprese, che tipicamente hanno una propensione, una capacità di investimento sulla tecnologia IT e sulle tecnologie di sicurezza tipicamente più basse delle grandi aziende, questo fenomeno è più pervasivo in virtù del tessuto industriale italiano, no? Fortemente sbilanciato verso la piccola media impresa, con 4 milioni di partite IVA. Sì, sì, dati che conosciamo. Questo è un grande problema. È assolutamente un grande problema. Ma se noi guardassimo, anche in base ai dati che voi avete, che voi raccogliete in giro per il mondo, quello che sta succedendo oggi a livello di insicurezza, perché diciamo, la sicurezza non fa notizia, fa notizia la insicurezza, cioè tutte le cose brutte che possono succedere. Cosa sta succedendo? Sì, fanno notizia quelli che noi chiamiamo i security breach o i large scale security breach. Cosa vuol dire? Quegli incidenti di sicurezza. Abbiamo un settore, ma tutti i settori dell'IT, ma questo in modo particolare è pieno di termini inglesi. Purtroppo quindi è un esercizio difficile. Sì, questo lo dico agli ascoltatori, che tutte le volte ai miei ospiti chiedo, insomma, di sforzarsi, cosa che non è facile, perché poi voi tutti i giorni con i vostri clienti, anche in Italia, parlate in inglese. Comunichiamo con questa terminologia. Questo sì, è anche uno dei problemi, lo si dice sempre nell'industria IT, del rapporto tra chi vende tecnologia e soprattutto medie e piccole imprese che non capiscono l'inglese. Ed è un problema, però è un problema soprattutto per loro, perché dovrebbero capire l'inglese, perché io continuo a dire che va benissimo, noi facciamo la radio, quindi cerchiamo di divulgare traducendo anche, però chi fa business oramai dovrebbe imparare l'inglese e dovrebbe fare dell'inglese la propria lingua, non dire devi tradurmi, no, devi essere tu che ti devi adattare al mondo, perché il mondo è globale. Però chiudo la parentesi, visto che stiamo facendo divulgazione, anche questa fa parte della divulgazione. Cosa sta succedendo? Torniamo al punto. Mentre da una parte noi abbiamo un fenomeno, appunto tornando al termine inglese, lo traduco anche, del security breach, quindi di incidenti di sicurezza. Ecco qua, se vogliamo la traduzione non è proprio ottimale, che breach è proprio una breccia, ecco, no? Aver rotto un argine, un muro. Sì. Però parliamo di incidenti di sicurezza. Quello che sta avvenendo è che il trend che è iniziato circa 2-3 anni fa, con un'escalation significativa di quelli che erano gli incidenti di sicurezza su scala globale, quindi no, quegli incidenti che finiscono sulle prime pagine dei giornali a livello globale, ecco, questo trend sta continuando. Non vediamo una crescita particolare, quindi se facciamo un'analisi di quelli che vengono chiamati mega breach, quindi quelli veramente clamorosi, negli ultimi 12 mesi sono abbastanza in linea con quello che si era verificato l'anno precedente e così via. Quello che però sta avvenendo è che la sofisticazione delle tipologie di attacchi che poi portano a questi incidenti di sicurezza aumenta, quella sì, in maniera esponenziale. Più noi, come dire, che ci vediamo dalla parte dei buoni, di quelli che devono arginare questi fenomeni e cercare di introdurre soluzioni sul mercato che permettano poi di evitare queste situazioni, quindi più noi lavoriamo e più dall'altra parte chiaramente il nemico, fra virgolette, lavora per aggirare sistemi di protezione. Dal vostro punto di vista il nemico sono stati, governi, o anche organizzazioni criminali? Che come sta cambiando questa tipologia? La tipologia la definizione di nemico è complicata, perché possono rientrarci sicuramente tutti queste terze parti menzionate, anche altre. Ci sono potenzialmente governi, non amici, anche se negli ultimi 12 mesi circa è aumentata l'attività anche a livello governativo su scala mondiale per far sì che sistemi paese si accordino tra di loro per accordi, come dire, di protezione bilaterale, però continuano a esserci, e noi questo lo vediamo poi nelle attività di analisi e monitoraggio che facciamo su scala globale, fenomeni con una chiara evidenza di sponsorship governativa, attività di, quindi malevole di hackering portata avanti da organizzazioni che non possono che essere sovvenzionate da sistemi Stato, da paesi. Quindi ci sono sicuramente queste realtà, ma la fenomenologia più tipica, se vogliamo, è quella del hacker for business, cioè l'hacker che ne fa una professione, un lavoro remunerativo, talvolta anche altamente remunerativo, e che quindi a cosa punta? Punta a proprietà intellettuale, punta a informazioni che in qualche modo possono poi essere valorizzate, perché abbiamo hacker e società di hacker che sono altamente specializzate sul furto di dati sensibili, non perché questi dati sensibili abbiano un valore intrinseco. Oggi come oggi una carta di credito, i dati di una carta di credito rubata sul mercato dell'hacker può essere monetizzata dai 5-10 dollari, quindi cioè vale niente. Vale niente. Mm. Valgono molto di più, ad esempio, le informazioni, il fascicolo sanitario di quel paziente, piuttosto che una serie di informazioni legata ai suoi asset, quindi a proprietà, a beni immobiliari, a questo tipo di informazioni ha maggiore valore, perché poi sono informazioni che potenzialmente permettono di costruire degli attacchi sofisticati, anche molto sofisticati, che possono essere dei denial of service, possono essere attacchi portati avanti sfruttando quelle informazioni per ottenere altre informazioni ancora. A proposito di accordi tra stati per tentare di calmierare questi attacchi che sono supportati dai governi, e faccio un esempio, giusto perché così ci facciamo capire ancora meglio. Ci sono stati, tipicamente si dice nel settore, la Cina, che sovvenziona organizzazioni per rubare proprietà intellettuali in giro per il mondo. Poi uno si chiede come mai un'azienda cinese è riuscita a fare una cosa simile a un'azienda italiana. Perché succede tutto ciò? Tra le società che si occupano di sicurezza c'è uno scambio di informazioni tale per cui tutto il sistema aumenta il numero di informazioni per combattere i cattivi? Perché immagino che voi facciate delle informazioni che avete sui cattivi un asset competitivo rispetto ad altre società, cioè tutti lo fanno. Sì, ci sono scambi di informazioni a livello di società vendor, quindi produttori di soluzioni di sistemi di security, così come si sta promuovendo un meccanismo di dialogo attraverso protocolli standard, attraverso i sistemi standard di comunicazione, di scambio di informazioni, non solo tra, come dire, tra noi vendor, no? Questo viene fatto, faccio un esempio pratico, noi di Fortinet assieme ad altri brand famosi abbiamo lanciato 3 anni fa quella che si chiama CSA, Cyber Security Alliance. Ci scambiamo informazioni sensibili e threat intelligence e dati di security intelligence tra di noi, proprio con l'obiettivo di aumentare i nostri rispettivi database anche condivisione. Quindi c'è questo scambio. Ma più importante ancora di questo scambio, in realtà deve esserci uno scambio e deve esserci un circolo delle informazioni dove al centro devono esserci potenzialmente o governi o associazioni di industrie. Possiamo fare l'esempio, no, del mondo automotive. Ultimamente va di moda la ricerca di vulnerabilità sui sistemi, sulle automobili. Ecco, ad esempio, a inizio anno negli Stati Uniti hanno creato un council, si chiama Automotive ISAC. ISAC sta per Information Sharing Analysis Center, quindi centro di informazioni e analisi delle minacce di sicurezza. Non è altro che un raggruppamento di costruttori di automobili, e le società che hanno aderito rappresentano circa il 98% del mercato americano, quindi la quasi totalità. Questo è un ente fatto da società private, che però comunica col governo degli Stati Uniti, comunica con le alleanze dei vendor, ad esempio comunica con noi così come comunica con altri, e comunicano tra di loro, quindi tra i vari manufacturer, e comunicano soprattutto con i subfornitori, perché alla fine le automobili non sono fatte, diciamo, a livello di componentistica, non sono altro che dei puzzle di elementi di terze parti, e ogni singolo elemento che costruisce l'intero sistema poi di guida, di controllo e di monitoraggio in automobile è fatto da centinaia di componenti diversi. Certo, se quindi è vulnerabile il freno, siamo spacciati. Se è vulnerabile il sistema di controllo, di monitoraggio del sistema frenante, siamo rovinati. Sì. Quindi c'è l'esigenza di questo scambio di informazioni, ma soprattutto questo scambio di informazioni deve avvenire in maniera orchestrata tra tutti gli elementi che poi... Sempre prendendo spunto da quello che dicevamo prima, visto che c'è un mercato dei cattivi che si scambiano informazioni, rubano dati, li rivendono, ci sono società che vendono le vulnerabilità. Allora, tutti i software, tutte le macchine, studiandole, fanno emergere vulnerabilità, quindi dei buchi del sistema che possono essere attaccati. Questo è uno dei motivi per cui anche il nostro smartphone va sempre aggiornato, le applicazioni vanno sempre aggiornate. Io mi stupisco che ci sono miei colleghi che ogni tanto mi mettono davanti lo smartphone, guardo lo smartphone e vedo che ci sono applicazioni che non vengono aggiornate da 6 mesi, da un anno, e mi metto le mani nei capelli. Allora, ci sono società che vendono vulnerabilità in maniera legale o illegale? Quindi voi, per alimentare i vostri sistemi, comprate queste vulnerabilità per scoprire dove sono i buchi, per poi fare gli aggiornamenti? Come funziona? Allora, noi innanzitutto facciamo ricerca di vulnerabilità. Per scoprirle voi. Per scoprirle noi. Quindi certo. abbiamo un gruppo, si chiamano FortiGuard Labs, sono oltre 200 persone che di fatto fanno questo dalla mattina alla sera, sono pagati per fare questo. Abbiamo peraltro acquisito un paio d'anni fa una società americana che era altamente specializzata sulla scoperta di vulnerabilità definite zero day, tant'è che oggi siamo uno dei vendor con il più alto tasso di scoperta in un anno tipicamente di vulnerabilità di tipo zero day. Però ci sono esiste un mercato, società, esatto, sì. Esiste un mercato, compriamo talvolta in situazioni, casi limite, perché non è quello il nostro obiettivo, però ci è capitato talvolta di acquisire anche zero day da terze parti, e questo lo si fa in maniera assolutamente legale, quindi ci sono delle aziende che lo fanno legalmente e c'è un business importante soprattutto negli Stati Uniti. Detto questo, c'è poi un business di rivendita di queste zero day che è invece del tutto illegale, e questo nella comunità degli hacker è un dato ben noto, e la valorizzazione di questi zero day dipende poi chiaramente da quello che può essere l'impatto, può andare da poche migliaia di dollari fino a centinaia di migliaia di dollari per una vulnerabilità specifica. Internet of Things, la industria 4.0, aumenta di molto l'insicurezza del sistema? Sì, per un semplice motivo. Parlare di Internet of Things non vuol dire altro se non parlare del portare sulla rete tutta una serie di elementi, di componenti, strumenti che non nascono con a bordo un'intelligenza adeguata per poter poi installare sistemi di protezione sull'endpoint, sul dispositivo stesso. Questo vuol dire, come diretta conseguenza, vuol dire che abbiamo assolutamente la necessità di proteggere, trovare delle soluzioni in grado di proteggere tutti questi sistemi. Quindi ci stiamo, come dire, stiamo creando una serie di problemi alla... Stiamo creando una serie di problemi, indubbiamente. Voi avete un po' di dati che ci raccontano, a proposito di quello che sta succedendo, che ci raccontano che, ad esempio, ancora oggi il phishing, e qui tutte le volte io mi stupisco, però c'è poco da stupirsi, cioè è inutile che mi torni a stupire tutti gli anni, no? ancora milioni di persone cadono nel tranello di una mail che ti arriva magari dalla Nigeria e ti dice: guarda che ho 10 milioni di dollari che devo posizionare da qualche parte, se mi dai il tuo conto corrente. Beh, però succede, è inutile che Ferronato, che sta di là dal vetro, giustamente si stupisce anche lui, però è così. Sì, diciamo che quello che hai appena menzionato tu è l'esempio classico che a tutti noi appare come talmente incredibile che uno possa cascarci. Di fatto gli attacchi di phishing che vanno a buon fine spesso sono molto ben confezionati e all'utente comune che magari in quel momento sta anche andando di fretta, sta facendo qualcosa di urgente, è al telefono e contemporaneamente sta guardando la posta elettronica, basta un clic oggi come oggi sui nostri sistemi, che poi sfrutta una qualche vulnerabilità, sfrutta il fatto che con questo click quell'utente in realtà si sta collegando a un sito malevolo che sfrutta una vulnerabilità del suo personal computer, e il gioco è fatto. Quindi il phishing oggi rimane il veicolo principale di infezioni, malware. Si inserisce all'interno di questo anche il ransomware, cioè i ricatti. Si inserisce il ransomware, assolutamente sì, tramite tipicamente quel software che di fatto ti blocca, ti immobilizza il personal computer piuttosto che anche lo smartphone, viene in qualche modo scaricato sul dispositivo con phishing, attraverso un meccanismo di questa natura, esatto, molto spesso attraverso il phishing. Allora, se noi guardiamo, per dare un dato che fa percepire anche a tutti noi, no? Quindi anche a quelli che non lavorano nel settore, l'incidenza delle mail di phishing, ecco, da un'analisi fatta dai nostri FortiGuard Labs sui nostri principali clienti, parliamo di grandi aziende, grandi multinazionali, emerge che circa il 97% della posta elettronica in arrivo sui sistemi di distribuzione poi della posta elettronica all'interno delle aziende, quindi dal mondo internet verso l'azienda, il 97% di queste mail vengono scartate dalle nostre piattaforme. Cosa vuol dire? Vuol dire che il 97% di quelle mail sono mail di spam, sono mail malevole, mail di pubblicità non desiderata, e in mezzo a questa pubblicità molto non desiderata molto spesso ci sono appunto mail di phishing. Pazzesco. Quindi solo il 3%, questo è un dato statistico, che è stato fatto su oltre 200.000 nostri clienti su scala globale. Molto bene, grazie Filippo Monticelli per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie a voi. Numeri che fanno paura, questi ultimi che abbiamo sentito. Bene, tutto per questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione, fateci pubblicità. Quindi consigliate ai vostri amici, ai vostri parenti, ai vostri colleghi di lavoro. Ci sono alcune persone che mi hanno scritto e le ringrazio doppiamente, che utilizzano 2024 sul posto di lavoro per tenere aggiornati i propri dipendenti su alcune cose. Oh, naturalmente non è necessario solo 2024, insomma 2024 è un po' così, un divertissement, però può essere utile per alcune chicche, soprattutto dei nostri ospiti che sono sicuramente molto autorevoli e molto competenti. Il nostro indirizzo di posta elettronica, il mio indirizzo di posta elettronica, è 2024, quindi 2024@radio24.it. Ci risentiamo anche la prossima settimana, come volete, via podcast oppure il venerdì alle 22, domenica alle 13.30. Grazie ancora e un buon ascolto con i nostri programmi.